una collettiva che in realtà è nata in funzione del primo progetto che abbiamo realizzato, nel senso che all'origine ci stavamo annoiando un sacco in pandemia, soprattutto in lockdown, perché c'eravamo addosso voglia di fare qualcosa, ma nessuno di noi poteva uscire di casa e ci ritrovavamo spesso in spazi assembleari virtuali, non ci conoscevamo neanche tra di noi di persona, cioè non ci conoscevamo nella cosiddetta normalità, però a forza di vederci attraverso gli schermi e di ragionare su che cosa, cioè come mettere a frutto queste serate passate in casa, abbiamo pensato: ma perché non raccontiamo in maniera divulgativa tutte le cose che ci sono care sul concetto di salute? E quindi ci siamo messe a fare un fumetto senza alcuna competenza, senza alcuna pregressa esperienza in questo campo, ed è un percorso che ci ha preso un anno perché l'abbiamo portato avanti nei ritagli del tempo. E poi da lì a un certo punto ci siamo dette: beh, ma magari visto che l'abbiamo fatto per disseminare, per uscire fuori dalle nostre case, tocca trovare un modo per farlo. Ok, come ci chiamiamo? Dove usciamo? Abbiamo deciso di creare un sito, una pagina Facebook, una pagina Instagram. Esatto, come dicevi tu, appunto avete già pubblicato il vostro primo progetto, il vostro primo lavoro che si chiama Materia Viva. Ci hai già accennato che trattate di salute, ma nello specifico come lo fate? Noi cerchiamo di raccontare delle visioni sulla salute che abbiamo maturato in vari contesti, cioè c'è chi di noi lavora nei servizi, c'è chi di noi se ne è occupato a livello accademico, c'è chi di noi un trattamento medico che non era tanto affine a queste idee lo ha subito. Diciamo che un po' il filo rosso è quello di decostruire un po' la centralità della sanità nella salute, cercare appunto di far emergere più salute come un concetto complesso di cui sicuramente la sanità è partecipe, ma non finisce lì. Un concetto su cui vi soffermate molto bene è quello di disuguaglianza di salute. Che cosa si intende per voi con questo termine? Appunto, una cosa di cui in sanità spesso ci si occupa poco, ovvero il fatto che la molteplicità di fattori che incidono sulla salute dipendono da delle disuguaglianze che sono strutturali, sono differenze ingiuste, e sono ingiuste perché non dipendono da una condizione genetica di predisposizione, dipende dalla possibilità che da una più alta più possibilità che io mi ammali perché vivo in un contesto svantaggiato, perché non ho le risorse per prendermi cura della mia salute o perché non ho reti sociali abbastanza forti intorno a me. Dei fattori che impattano sul mio stato di salute, non solo dal punto di vista sanitario, quindi non so, magari sviluppo il diabete perché crescono in un contesto di un certo tipo, ma anche sono a loro modo base per una vita che può non essere soddisfacente, che può non essere. Il fatto che ci siamo soffermate molto sulle disuguaglianze in salute è perché rientra appunto fra le cose poco tenute in considerazione a livello di intervento, nel senso che se disuguaglianza in salute si intende appunto una iniquità, una differenza in come la salute e i fattori che producono salute sono distribuiti, per produrre salute servono interventi che vadano a interferire con quei fattori, quindi non solo un intervento sanitario che mira alla patologia, ma anche interventi di prevenzione e di promozione della salute che vadano a interferire su quella base che alla fine è anche una base di ineguale distribuzione di potere, per cui lì il sanitario non so se può farci molto, ma sicuramente serve un intervento su più larga scala, cioè quello che poi abbiamo chiamato appunto empowerment, partecipazione. Allora, ti volevo fare solo un'ultima domanda, Martina. Avete in cantiere progetti futuri? State già pensando a qualcos'altro? Sì, ci solletica un po' l'idea di approfondire un'altra delle parole che stanno risuonando molto in questo periodo, che è quella delle cure territoriali. Però proprio in cantiere, in fase proprio embrionale, quindi un piccolo spoiler, non sappiamo bene che direzione prenderemo in effetti. Senti, per chi volesse leggere il vostro fumetto, dove si può trovare? Così diamo qualche contatto. Allora, sia su Instagram sia su Facebook, alla pagina Collettiva Chete, che si scrive Kate, anche su un sito che però è addirittura più impronunciabile, che è collettivachete.wixsite.com/chete. Perfetto, Martina, io ti ringrazio, insomma, complimenti per il vostro lavoro. Grazie infinite a te e a voi tutte e tutti.